Siamo qua a guardare le stelle nel cielo. Tre amici al bar stanno suonando una vecchia canzone. La musica mi riporta in un mondo lontano, al tempo che la canzone girava per radio. Giorno che il tuo sorriso ha rapito il mio cuore, quei tre amici giù nel bar han finito di suonare, la loro musica è nell'aria, è come un'onda e non si fermerà, le corde ancora sfiorerà, rullante il tempo porterà. Basso più basso non andrà, la voce questo motivo canterà. Sorry.